Il Teatro Odeon ha appunto riaperto le porte. Innanzitutto, quanta emozione c'è? Molta, moltissima, anche perché il lungo periodo di fermo delle attività, insomma, che ha colpito naturalmente non solo il Teatro Odeon, ma tutti i teatri d'Italia, rappresenta qualcosa di più unico, forse, che raro nella storia recente del teatro. Bisogna pensare che i teatri non hanno chiuso nemmeno durante la guerra, la seconda guerra mondiale, rimanevano aperti, quindi insomma è stato qualcosa veramente di nuovo e anche di fortemente deprimente per quello che poi è stato il prosieguo dell'attività. Noi abbiamo continuato un'attività interna, abbiamo continuato a scrivere, abbiamo continuato a portare quelle migliorie al teatro, a fare quei lavori strutturali al teatro che erano necessari per far sì che non andasse in malora, ma chiaramente un teatro vive di pubblico, vive insieme al pubblico, e vedere la sala vuota, credetemi, per un direttore, ma per un attore, per chiunque ci lavori all'interno, davvero molto molto difficile. Per fortuna adesso, insomma, abbiamo potuto riaprire all'inizio del mese di settembre. La stagione è cominciata con alcune nostre produzioni, che erano gli spettacoli più immediati che potevamo proporre al pubblico. Proseguirà questo fine settimana con Festival Bologna e Nuvole, in un'edizione, diciamo, ridotta rispetto al solito, questo festival musicale che noi proponiamo da 4 anni, questa è la 4ª edizione, in un'edizione ridotta, ma si fa comunque, in ogni caso, sarà articolato in 2 serate, e poi a seguire tutto il prosieguo della stagione fino alla fine di dicembre, perché purtroppo era impossibile, nel momento in cui ci siamo messi ad organizzare, a promuovere e a cercare spettacoli per questa parte di stagione, sarebbe stato impossibile lavorare sulla seconda parte. Questo lo dico per chi non fosse a conoscenza: l'anno teatrale non segue l'anno solare, usualmente va da ottobre fino ad aprile-maggio, quindi diciamo non ha una collocazione temporale che ricalca esattamente quella dell'anno solare. Quest'anno è molto difficile riuscire a reperire spettacoli per il 2022. Adesso si sta ricominciando a produrre, gli impresari, le agenzie di spettacolo che lavorano, noi siamo un teatro di produzione ma che anche distribuisce spettacoli prodotti da altri, e purtroppo non è semplicissimo adesso riuscire a trovare, riprendono a fatica, alcune compagnie si sono sciolte, altre propongono un repertorio, diciamo così, minore, quindi magari monologhi o cose più facilmente attuabili anche in periodo di Covid. A breve dovrebbe uscire il decreto attuativo che ha recepito le indicazioni del comitato scientifico per una riapertura all'80% delle sale teatrali, quello che sicuramente è un passo avanti, non è ancora il 100%, ma sicuramente è un inizio positivo. Bisognerà però vedere se verranno rivedute anche le norme relative al distanziamento, perché avere l'80% della sala disponibile poi sarebbe poca cosa, anzi sarebbe cosa inutile, qualora non venisse rivisto anche il criterio di distanziamento, nel senso che dovendo mantenere comunque un distanziamento che vige attualmente vigente, la sala non ha, la nostra sala che dispone di 500 posti totali, non può contare su più di 150-180 posti massimo a seconda del numero di nuclei familiari presenti, e quindi siamo a una capacità inferiore ad un terzo. È chiaro che questa è una situazione provvisoria che però non può durare, insomma. Quindi sì, per rispondere alla tua domanda, molta emozione nel riaprire, sicuramente anche molta ansia, perché non sapevamo quale avrebbe potuto essere la risposta del pubblico, che fortunatamente invece è stata positiva, è stata buona, però anche, diciamo così, molta inquietudine rispetto al futuro. Siete comunque riusciti a stringere delle collaborazioni che sono appunto tuttora in atto con compagnie teatrali, ne vogliamo citare qualcuna? Assolutamente sì, abbiamo dei bei nomi presenti, poi bisogna dire che comunque in ogni caso c'è una grande voglia di fare teatro, e io credo anche di vedere teatro. Ecco, da questo punto di vista forse la pandemia, qualcosa di positivo, se così si può dire, lo ha innescato. Mi sembra di vedere anche, soprattutto nei giovani, una certa voglia di uscire che magari si era un po' persa, no, negli ultimi anni, e anche da parte delle compagnie c'è comunque voglia di andare in scena. E abbiamo, così giusto a volo d'uccello, dal 22 al 24 ottobre Natalie Caldonazzo e Francesco Branchetti, per esempio, poi a seguire dal 29 al 31 ottobre Pietro Longhi e Gaia De Laurentiis. Peraltro sia Gaia che Pietro sono degli abituè del Teatro Odeon, sono già venuti altre volte, attori molto bravi, molto quotati a livello nazionale. Abbiamo un bolognese, Andrea Sant'Anastasio, che fra l'altro è prodotto in questo caso dal Teatro dell'Argine, e però al Teatro Odeon il 6 novembre, con uno spettacolo su Andrea Pazienza. Questa è una cosa, secondo me, insomma, anche molto interessante per chi segue la cultura del fumetto, per chi segue Andrea Pazienza. So che a Bologna, insomma, anche in ambito giovanile scuote ancora una certa attenzione. E poi dal 12 al 14 novembre Deborah Caprioli e Maurizio Micheli, anche loro già venuti tante volte con Amore mio aiuta, commedia brillante ma anche abbastanza profonda su quelli che sono i rapporti di coppia. Poi a seguire Tonello Costa, un altro dei nomi storici, insomma, anche lui più volte venuto. E poi per esempio la stand-up comedy che abbiamo inserito già qualche anno fa, riscuote molto successo, piace molto, diciamo, adesso, con Daniele Fabbri, Fake Minismo, uno spettacolo sul rapporto fra il mondo maschile e quello femminile, oltre naturalmente poi a qualche classico come nella tradizione del nostro teatro, per esempio dal 10 al 12 dicembre quest'anno abbiamo gli Innamorati di Goldoni, è una produzione del Teatro Carcamo, una produzione molto importante, quindi insomma abbiamo dei buoni titoli. La programmazione fino alla fine di dicembre è stata garantita fortunatamente, anche perché abbiamo potuto portare in scena le nostre produzioni, quindi tre nostri spettacoli che sono andati in scena a partire dall'inizio di settembre, sono già andati in scena: Flower Power, che fu interrotta purtroppo nella sua tournée milanese dall'esplodere dell'epidemia; Niente come sembra, che era un testo, una ripresa di un testo che avevamo portato in scena già un paio d'anni fa; e una novità assoluta, Patto col Diavolo. Questi sono tutti testi che ho scritto io, sempre nello stile che caratterizza poi la nostra compagnia, quello di una commedia brillante, però di, per così dire, di impegno civile, insomma, che tratta problemi dell'attualità, poco frequentati ma comunque molto attuali, se vogliamo, poco frequentati dal teatro, intendo dire, purtroppo dalle cronache di attualità invece lo sono. E come, Flower Power parla della diffusione della droga negli anni 60, anche e soprattutto con, diciamo così, la collaborazione di parti del governo americano. Sono temi importanti, insomma, che noi affrontiamo sempre ovviamente con ironia, come nello stile ormai consolidato della compagnia Teatro Aperto. Piero, io ti ringrazio veramente per averci raccontato un po' la stagione teatrale 2021-2022 del Teatro Odeon, e per chi volesse informarsi meglio vogliamo lasciare il sito. Naturalmente www.teatrodeon.it, c'è anche una pagina Facebook e una pagina Instagram, e naturalmente anche presso la biglietteria del teatro, che è aperta tutti i giorni, dal martedì al sabato dalle 15 alle 19. Il numero di telefono è 051 34 29 34.